Pronto? Pronto? Ciao, sono Null Pointer. Sono per la prima volta venuto a conoscenza che Havana era esistita quando, poco dopo essermi trasferito a Roma, ho iniziato a frequentare il collettivo del Bugs Lab. Dico che Havana era esistita in quanto negli anni ho spesso sentito nominare i personaggi di Havana, che tramandando tutte le loro conoscenze avrebbero posto le basi per la nascita del Bugs Lab. Ma per lungo tempo sia Havana che questi personaggi sono rimasti per me solo un mito, mai visti e mai sentito di un'iniziativa di Havana. Infatti, proprio in quegli anni, parliamo circa della fine del 2006, il collettivo di Havana non era molto attivo. Subito dopo l'ACM Meeting del 2010 di Roma, tenutosi alla Torre, le attività del Bugs Lab andarono pian piano fermandosi. Ma l'ACM Meeting era riuscito ad aggregare un gruppetto di noi provenienti da esperienze diverse, tra cui il Bugs, i collettivi universitari e indie media, che continuarono a vedersi seguendo alcune iniziative all'università e curando la riapertura del nodo romano di indie media. Anche l'esperienza di indie media Roma 2.0 si è poi esaurita, ma questa è un'altra storia. Non riesco a ricordare esattamente quando abbiamo iniziato a chiamarci Havana 3.0, ma sicuramente l'entusiasmo che ha portato alla riapertura del progetto Havana è partito dall'assemblea pre-ACKIT del 6 gennaio 2012 all'asilo occupato dell'Aquila. L'assemblea fu molto partecipata e in particolare da Roma partimmo con molte auto. Da subito ci furono tantissime idee interessanti da realizzare, ma presto il collettivo aquilano si spaccò a causa di attriti interni e quindi le pochissime individualità locali, superstiti, si trovarono supportate da un nutrito gruppo con base a Roma, costituito da pezzi di Bugs Lab, Indie Media, Radio Onda Rossa, ACM Meeting, ex Laboteca di Sora, eccetera. Nel frattempo, la stanza di Havana del Forte Prenestino era stata ripulita dal vecchio hardware e ritinteggiata ad opera dei veterani di Havana ed occupanti del Forte Prenestino. Ci siamo quindi uniti per la conclusione dei lavori e la realizzazione dell'impianto elettrico e di rete. È stato automatico iniziare a vederci lì per le riunioni, installare una connessione ADSL e un server per realizzare i molti progetti, aquilani o meno, che ci venivano in mente. È stato quasi altrettanto automatico iniziare ad utilizzare la mailing list già esistente di Havana e quindi entrare in contatto con chi aveva partecipato al progetto fino a qualche anno prima. Con la scusa della nostra insana passione per la frittura, abbiamo poi presentato al Forte, friggendo, un paio di nostri progetti nati un po' per gioco. Il sistema operativo cifrato preinstallato su pennetta USB, Fripto, e il manualetto di autodifesa dalla repressione digitale, Crypto or Die. Questi stessi progetti ci hanno portato a presentarli un po' ovunque nella penisola e a stringere collaborazioni con tanti altri gruppi e collettivi. Ma ovviamente, le segrete del Forte celano alcuni altri segretissimi progetti.